Praticamente era più di un mese che si aspettava il 30 giugno, sono scesi milioni e milioni di egiziani, i numeri riportano 33 milioni di egiziani che sono scesi per le strade e per le piazze chiedendo appunto la caduta del presidente Morsi. Tutti incitavano appunto slogan che dicevano che il popolo, la polizia e l'esercito erano un'unica cosa. Quello che è successo fondamentalmente il 30 giugno è stato che c'è stato un gruppo di le famiglie del quartiere di dove c'è la sede dei Fratelli Musulmani. Ha iniziato appunto, ci sono stati alcuni scontri da una parte e dall'altra e ci sono stati almeno 7-8 morti, mentre il resto del paese appunto festeggiava. Sono continuati gli scontri anche i giorni appunto ieri e l'altro ieri, e sono stati ammazzati almeno 7-8 ragazzi in un quartiere che si chiama Benesperoia, e niente, stamattina, cioè poco fa, l'esercito, abbiamo visto i carri armati che sono scesi nuovamente per le strade circondando i presidi dei Fratelli Musulmani, che uno era appunto in questo quartiere dove sono stati uccisi almeno 7 ragazzi, e l'altro che sta vicino all'Università del Cairo, e l'altro quartiere dove stanno in presidio da almeno una settimana insomma vicino a Rabat. Quindi adesso l'esercito è di nuovo per le strade e stiamo aspettando appunto la dichiarazione dell'esercito, che dovrebbe esserci intorno alle 8:30. Ah, quindi oggi scadeva comunque l'ultimatum che che l'esercito ha dato a Morsi. Sì, Morsi in questo momento non si sa dov'è, cioè nel senso non sappiamo dove l'abbiano portato e che fine abbia fatto. Ieri in diretta ha detto che la Costituzione è la cosa più importante e che lui sarebbe rimasto, ma a quanto pare appunto l'esercito è sceso per strada e la situazione è questa, quindi praticamente è finito Morsi, l'era di Morsi e dei Fratelli Musulmani. Beh, rispetto a una tua opinione, un tuo commento rispetto a questo? Diciamo che il popolo, la gente non ce la faceva più a sostenere i Fratelli Musulmani con la loro politica di repressione, oppressione e brutalità. Le condizioni di vita basilari erano abbastanza deteriorate in questo anno in modo abbastanza tragico. Accadeva che appunto l'elettricità veniva tagliata almeno 5-6 volte al giorno per almeno un'ora e mezza ogni volta, quindi la gente è scesa in piazza dicendo basta, non vogliamo più i Fratelli Musulmani, vogliamo che Morsi si dimetta, e quindi questa è stata la situazione. Purtroppo la gente è scesa per le strade gioiosa e festante, mentre appunto il 30 notte c'è stato un massacro da parte dei Fratelli Musulmani davanti alla loro sede, che è stata completamente distrutta e bruciata, insomma. Va bene. Quindi noi insomma vediamo un po' come va la situazione, ma non siamo molto felici del fatto che appunto l'esercito sia ritornato di nuovo al potere. Quindi, come dire, da un lato va bene che sono andati via fra Morsi, dall'altro il fatto che l'esercito si riappropri, come di fatto insomma un po' ha sempre fatto, il controllo dell'Egitto. Sì. È un passo, esatto, indietro rispetto a quella che fu la cacciata di Mubarak. La storia si ripete, sembra un circolo vizioso, non riusciamo a uscire fuori appunto da questo cerchio. ve ne staremo a vedere, insomma, i giorni che vengono, che cosa accadrà, che cosa facciamo, insomma. Va bene, io ti ringrazio di questa ulteriore comunicazione, ma in questo momento ad esempio tu hai notizie proprio di che cosa sta avvenendo nelle piazze, l'intorno, perché insomma guardando i siti sì, si parla di scontri, di esercito in piazza, però forse... No, in realtà gli scontri ancora non sono avvenuti tra i fratelli musulmani e l'esercito, la gente è scesa in piazza, a Piazza Tahrir, piuttosto che appunto vicino al palazzo presidenziale festante, ma di scontri ancora non si parla e i fratelli musulmani sono accerchiati appunto dall'esercito. Quindi va bene, vedremo lo sviluppo nelle prossime ore, sicuramente ti inviteremo di nuovo a parlare dei microfoni di questa radio.